America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano. Mario Platero, Barack Obama in Germania, Donald Trump che cerca di costruire la sua squadra. In questi giorni, devo dire, la politica americana è abbastanza ripetitiva. Non abbiamo vere novità ancora rispetto a quelle che vi ho raccontato nei giorni scorsi. Ecco, l'unica cosa interessante è in arrivo dalla Germania, dove Obama ormai è nel pieno della sua visita di addio all'Europa. E quello che è interessante, a parte l'incontro con la Merkel, il bilaterale e così via, così via, e che insieme i due leader hanno pubblicato sulla rivista Wirtschaftswoche un articolo sulla globalizzazione, e si dice: non c'è possibilità di tornare in un mondo pre-globalizzazione. L'idea di approfondire, di rafforzare il dialogo per aumentare la cooperazione fra le aziende delle due coste dell'Atlantico, per aumentare i commerci, per liberalizzare i movimenti dei cittadini, insomma, restiamo ancorati a questa visione aperta e positiva che contrasta ovviamente con quella di Donald Trump, anche se poi alla fine credo che contrasterà solo fino a un certo punto. Ma visto che non abbiamo grandi notizie e che domani ci sarà un po' il grande vertice d'addio con i leader europei in Germania, oggi vorrei parlarvi d'altro. Right, on your hop. He has some attachment issues. Now come on, pick it. Ecco, animali fantastici e dove trovarli. Vi ho fatto ascoltare uno spezzone di questo nuovo film di J.K. Rowling, che è l'autrice, la storica, incredibile autrice di Harry Potter, che ha venduto decine e decine di milioni di libri in tutto il mondo. Sono stati fatti 8 film su Harry Potter. E io sono andato a Carnegie Hall qualche giorno fa. Carnegie Hall è uno dei più bei teatri del mondo, per la super anteprima di questo nuovo film, per incontrare Jo Rowling, che è una donna straordinaria, dolce, articolata, in grado di raccontare non solo 1000 storie fantastiche, ma anche di parlarci della filantropia, perché si è impegnata con questa fondazione che ha costituito lei stessa, che si chiama Lumos, dedicata agli orfani. Però questa è una storia a parte, perché mi interessa molto e la farò poi in un'altra puntata. Qui voglio parlare del film, anche perché il film esce questa sera in Italia, uscirà domani negli Stati Uniti. Posso dirvi questo, sarà un hit, perché è un film molto bello, affascinante, denso di magia, però è un film diverso da Harry Potter. Pensate, fa un po' un balzo all'indietro, sembra come Star Wars, no? La serie in cui invece di andare avanti e poi si risaliva, si rivedevano episodi del passato, e qui si risale un po' indietro nel tempo, e all'improvviso ci troviamo dall'Inghilterra, dove Harry Potter e i suoi facevano il bello e il brutto tempo, nella New York degli anni 20. E cosa scopriamo in questa New York degli anni 20? Che ci sono delle associazioni di magia a New York, e all'improvviso c'è un giovane, un ragazzo che arriva dall'Inghilterra ed è un collezionista di animali fantastici, appunto animali che lui ha collezionato un po' dappertutto nel mondo e che tiene dentro questa valigia. Non vi racconto molto di questa trama perché non voglio rovinarvi poi la sorpresa, è un film molto divertente, molto bello, denso di colpi di scena, però è attorno a questa storia di questi animali che sono chiusi in una valigia, poi alcuni scappano e ci sono delle scene molto divertenti che si costruisce un po' un piccolo giallo. Ovviamente ci sono dei momenti di grande tensione, la sala quando abbiamo visto il film è esplosa in applausi, in grandi boati di disapprovazione, in grandi esclamazioni di paura, per cui se andrete a vedere questo film posso garantirvi che vi divertirete, perché è un colosso. Dunque, Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Eddie Redmayne, ve lo ricordo, premio Oscar miglior attore, quindi abbiamo già un attore di grandissima qualità. Poi ci sono Catherine Watson, Dan Flogger, Alison Sudol e soprattutto Colin Farrell. E poi un'apparizione a sorpresa, anche qui non vi rovino la sorpresa, di Johnny Depp. C'è anche Johnny Depp. A un certo punto poi, prima del film, perché c'è stato prima un cocktail, poi la J.K. Rowling ha raccontato delle fiabe dei bambini, ed è stato un momento bellissimo. Tra l'altro ho fatto delle foto, le metteremo su internet. Dopodiché il film e poi un altro drink subito dopo il film con gli attori. E soprattutto abbiamo J.K. Rowling che ci racconta, che mi racconta, cos'è stato per lei scrivere una sceneggiatura, perché qui non ci sono libri, c'è un libretto che scrisse per beneficenza anni fa, da cui ha tratto poi questa sceneggiatura, e questo è il primo di altri film. I film saranno in tutto 5, quindi ci sarà di che divertirsi per un bel pezzo. Ma ecco qui J.K. Rowling, questa è la registrazione che ho fatto alcuni giorni fa. All right, who is the next question? Qual è la differenza tra lo scrivere una sceneggiatura e lavorare a un romanzo? Insomma, che cosa preferisce fra le due? È molto diverso, ma ad essere sinceri, il mio primo amore, quello che ho sempre voluto fare, sono i romanzi. Ci sono stati momenti mentre scrivevo la sceneggiatura in cui ho pensato non lo rifarò mai più. Ma poi sul set accade la magia e tutto quello che hai immaginato prendere una forma concreta, e allora pensi sicuramente lo farò di nuovo. È stato incredibile. Indubbiamente si tratta di una tipologia di scrittura completamente diversa. È come imparare una lingua totalmente nuova. Devi considerare il fatto che il risultato sarà un prodotto che viene visto, non letto, e quindi devi prestare maggiore attenzione ai dettagli. Ho apprezzato davvero molto questa sfida. Ecco, cosa ha provato nello scrivere la sua prima sceneggiatura? Mi sono sentita intimorita, ma a me non piace vivere una vita semplice. Non avevo pianificato sin dall'inizio di scrivere una sceneggiatura. Sapevo solo che avrei voluto trarre un film dal libro che avevo scritto. L'unica cosa che avevo davvero chiara in mente era la figura del protagonista, Newt Scamander. Per cui mi sono detta, cominciamo a parlare di lui. Mi sono messa a scrivere e ho continuato a farlo, una pagina dopo l'altra. Alla base di tutto, quindi, c'è una storia, non la volontà di scrivere una sceneggiatura. Ecco, lei continua a scrivere, molte persone vorrebbero farlo, ma poi abbandonano l'idea. Ma lei perché? Qual è la molla che le impone di continuare a scrivere? I have a real need to write. Io ho un bisogno davvero viscerale di scrivere. Per me non si tratta di una scelta, semplicemente devo farlo. Non mi sono mai trovata a dover fronteggiare il cosiddetto blocco dello scrittore, quello vero, dove risulta impossibile scrivere. Una sola volta, forse, per essere onesti, erano i primi anni Ottanta, anche se non ho mai dovuto affrontare questo problema. Tuttavia, se vuoi davvero dedicarti alla scrittura, devi esserne convinto. Prima che diventi la tua professione sono necessari molti sacrifici per ritagliarsi il tempo necessario. Devi spegnere la televisione, smettere di guardare le soap opera, ad esempio. Alla fine si tratta solo di quello, dedicargli il tuo tempo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, lei da questa costa atlantica che non vive più nemmeno difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su mario4.com, seguitemi su Twitter, @mario_platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la dedichiamo a lei, la dedichiamo a J.K. Rowling, anche a questa sua missione filantropica e a questi racconti che hanno affascinato generazioni di bambini, la magia, il mondo della magia. Nessun altro prima di lei lo aveva fatto in questo modo per grandi e piccoli, dei Police. Every little thing she does is magic. Milano, superate le elezioni americane a cavallo con un viaggio europeo del presidente Obama, Mario Pratero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.